qualcuno a difenderti da quel male che tu non sei, da quell'odio invisibile. Sarò mai capace di difendermi da questa ansia incredibile, un amore implacabile? Ma lo sai quanto sei tu per me, sentirmi vivo è ciò che mi fai. Succede che a volte il destino sulla città, sale lento lento perché sua è già lo sa. Quando tu sei qui è un martirio pensare all'idea che ritornerà la lontananza tra noi due. La mia ossessione sei tu.